Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Inchiesta G8, chiesta l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro Lunardi. In questi minuti la conferenza stampa del Cardinal Sepe. L'appello di Napolitano alle Camere, concentrarsi sulla manovra prima della pausa estiva. Arriva l'estate ma solo sul calendario, piove al centro-sud e farà freddo ancora per qualche giorno. Mondiali di calcio, l'Italia fra paura e polemiche, sotto accusa una squadra che non sa segnare. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano l'inchiesta sui grandi eventi che vede coinvolti anche l'ex ministro Lunardi e l'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, il quale inizia proprio in questi minuti una conferenza stampa. I PM di Perugia hanno chiesto al Tribunale dei Ministri l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi, oggi deputato PDL, indagato per corruzione aggravata nell'ambito dell'inchiesta sui grandi appalti insieme all'arcivescovo di Napoli Crescenzo Sepe. Entrambi, raggiunti sabato scorso da avviso di garanzia, si sono resi disponibili a collaborare. Secondo fonti giudiziarie, Lunardi sarebbe stato venduto a un prezzo di favore nel 2004 un immobile della ex Propaganda Fide, la congregazione della Curia Romana per l'evangelizzazione dei popoli, presieduta tra il 2000 e il 2006 dal cardinale Sepe. Nel 2005, in base alla ricostruzione dei quotidiani, Lunardi avrebbe poi approvato un decreto che finanziava il restauro di edifici religiosi storici, tra cui la stessa sede di Propaganda Fide nei pressi di Piazza di Spagna a Roma, per un importo di circa 2 milioni e mezzo di euro. Beatrice Vergari, GR24, Il Sole 24 Ore, Perugia. E senza annunci ufficiali, è comparsa questa mattina sulla pagina d'apertura del sito del Vaticano una sezione speciale dedicata all'archivio storico di Propaganda Fide, la congregazione vaticana guidata da Sepe dal 2001 al 2006 e finita al centro delle indagini sulla cricca. Era il 22 giugno 1622 quando Papa Gregorio XV fondò la congregazione Propaganda Fide, con il compito specifico di diffondere la fede cattolica nel mondo intero. A tale scopo, si legge oggi sul portale, il Dicastero Vaticano coordina ed esercita la giurisdizione sulle missioni della Santa Sede e promuove la formazione del clero e delle gerarchie locali. In quattro secoli di storia il dicastero non ha certo lesinato in attività missionarie, teologiche e culturali, dando vita ad esempio a quattro pontificie opere missionarie in Italia e in Francia, o avvalendosi dal 1627 di un proprio Ateneo, oggi chiamato Pontificia Università Urbaniana. Ma a far accendere i riflettori su quella che ora si chiama la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli sono soprattutto i suoi immobili coinvolti nell'inchiesta sui grandi eventi. 9 miliardi di euro il valore stimato. E nel patrimonio della congregazione, accumulato con i lasciti di chi vuole sostenere l'evangelizzazione in Africa o in Asia, non vanno contati i possedimenti extraterritoriali vaticani, come proprio il Palazzo di Propaganda Fide, o come le offerte che ogni anno i fedeli effettuano in occasione della giornata missionaria e che portano alle casse del dicastero più ricco d'Oltretevere 70-80 milioni di euro. A guidare la congregazione dal 2006 è il cardinale Ivan Diaz, indiano dalla forte spiritualità. Dovrebbe lasciare il suo incarico nel 2011 al compimento dei 75 anni e allo scadere del primo quinquennio di mandato. Il Papa però potrebbe decidere di anticipare i tempi, visti i problemi di salute di Diaz e le attuali vicende giudiziarie. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Questa mattina è arrivata l'esortazione da parte di Napolitano a fare presto sulla manovra. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Torna a parlare della manovra economica il capo dello Stato. Il decreto fa capire Napolitano deve trovare un punto di equilibrio tra la sostenibilità dei conti e la crescita. Napolitano si rivolge quindi alle forze politiche e sociali lanciando un vero e proprio appello. La manovra economica domini l'agenda parlamentare fino alla pausa estiva, ma ascoltiamo il Presidente della Repubblica. Concentrarsi tutte le forze politiche e sociali e tutte le componenti istituzionali sulla discussione più seria ed aperta attorno ai termini della manovra finanziaria ed economica affidata al decreto da convertire in legge entro fine luglio. Concentrarsi su questo difficile adempimento, che non può non dominare l'agenda parlamentare nel breve tempo che separa le Camere dalla pausa estiva, significa anche esprimere nella massima misura possibile il senso di una comune responsabilità nazionale. Nato nero su bianco i 2.500 emendamenti alla manovra, le modifiche più importanti tuttavia sono attese in settimana da parte del governo, vi dovrebbe essere una correzione sui tagli alla spesa e da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Viglietta. Nasce il Ministero per l'attuazione del federalismo, come sapete, secondo voi è necessario, è quanto vi abbiamo chiesto oggi nel nostro sondaggio, il 14% di voi ha risposto sì che è necessario, l'86% no, dunque ha stravinto la maggioranza del no. Massimo Donadi, capogruppo Italia dei Valori alla Camera, al microfono di Alessandro Milan. Si è creato un ministero barzelletta, un ministero assurdo, il ministero del nulla, un ministero di cui nessuno sentiva il bisogno, tanto meno la Lega, che non a caso ieri dice il federalismo siamo noi, non è cambiato nulla, e quindi se non è cambiato nulla significa che Brancher non serve. Ma perché si fa dalla sera alla mattina un ministero che è un costo inutile, di cui nessuno sente la necessità, ma non prendiamoci in giro. Esistono già 3 ministri che se ne occupano, una commissione bicamerale tra Camera e Senato apposita, creata appositamente ad hoc per l'attuazione del federalismo. È una bugia. Ed ora il caso Fiat, sciopero nello stabilimento di Termini Imerese, gli operai hanno fermato la produzione per protesta contro le parole dell'amministratore delegato del Lingotto Sergio Marchionne, che aveva criticato i lavoratori siciliani accusandoli di aver scioperato lunedì solo per poter vedere la partita di calcio dei mondiali Italia-Paraguay. Intanto domani il referendum in un altro stabilimento Fiat, quello di Pomigliano, referendum come sapete sull'accordo con l'azienda firmato da tutte le sigle sindacali tranne la FIOM. In diretta Paolo Picone. Paolo, dove sei? Sì, buongiorno, a Pomino d'Arco, a pochi metri dall'ingresso dello stabilimento Fiat. Qui è una vigilia importante proprio per il futuro della fabbrica di Pomigliano. Domani infatti, come dicevi tu prima, è il giorno della verità. I 5.000 lavoratori sono chiamati a esprimersi sull'accordo separato perché non firmato appunto dalla FIOM, ma dal cui esito la Fiat ha subordinato la decisione di investire 700 milioni di euro per ristrutturare lo stabilimento campano e per spostare dalla Polonia la produzione della nuova Panda. La lettura dei risultati del referendum sarà delicata, quindi decisiva. Che vincano e sì sembrerebbe scontato, ma il problema sarà vedere con quanto margine. Oggi intanto i lavoratori e i sindacati sono indaffarati proprio nell'organizzazione del referendum che inizierà domani intorno alle 10 di mattina. Per la politica locale, quella odierna invece è una giornata di fermento, è ancora in corso a Napoli il dibattito sulla vicenda Pomigliano del Consiglio regionale convocato in seduta straordinaria. Oggi pomeriggio invece alle 17 è previsto un consiglio comunale e provinciale sempre straordinario sul tema Fiat che si terrà nel Teatro Cittadino qui a Pomigliano. E per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Paolo Picone. Non solo Fiat, le case automobilistiche in tutto il mondo fanno i conti con la crisi e con la possibile ripresa. Mentre in Italia continuano le polemiche sul futuro della fabbrica di Pomigliano, in Germania le grandi case automobilistiche del paese stanno approfittando della ripresa economica nei paesi emergenti. Anche molti stabilimenti tedeschi hanno problemi di produttività. Eppure Daimler, BMW e Audi stanno gradualmente tornando ai livelli di produzione pre-crisi. In Cina le società tedesche hanno raddoppiato le vendite nei primi 5 mesi dell'anno. La settimana corta, che ha consentito a molte imprese tedesche di evitare licenziamenti in massa, sta diventando l'eccezione. BMW, per esempio, ha assunto circa 5.000 operai a tempo determinato. In alcuni casi si è tornati a lavorare il sabato e le vacanze estive sono state riviste per rispondere all'aumento della domanda internazionale. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Proseguono bene le borse questa mattina grazie alla decisione della banca centrale cinese di rendere più flessibile lo yuan. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Effettivamente è così. Le borse europee stamattina hanno ingranato un'ottima marcia dopo questa decisione ed è stato molto movimentato anche il mercato dei cambi, con lo stesso yuan che si è portato ai massimi del 2008 nei confronti delle altre divise, in particolar modo nei confronti del dollaro, ed era piuttosto pimpante anche la seduta dell'euro verso il biglietto verde fino a 1,2467 per ripiegare adesso leggermente. Per la verità sul fronte euro non c'è un orientamento fortissimo da parte degli investitori relativamente alla forza della moneta unica europea. Di fatto però questa decisione che è arrivata dalla Cina ha dato un po' di sprint proprio anche alla moneta unica europea, che è sotto pressione da molte settimane per la crisi greca, per quella spagnola e per quant'altro. In ogni caso mercato azionario piuttosto buono, borse europee che sono già reduce da una settimana che è stata l'insegna di diversi guadagni, quella che abbiamo appena passato. Milano sta guadagnando 1%, 1,5% di rialzo, invece a Parigi, Francoforte 1%, su Londra per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E la crisi economica cambia le abitudini degli italiani. Brioche e cappuccino, anche un semplice caffè. A questo l'italiano non rinuncia mai. Anche in tempi di crisi il rito della colazione è sacro. È quanto emerge dall'indagine di Confesercenti sulle abitudini di consumo nei pubblici esercizi. Abitudini che in generale hanno risentito e come della crisi. Nel 2009 il 26%, un italiano su 4, ha ridotto sensibilmente il consumo nella ristorazione. Si va meno a cena fuori, soprattutto nelle aree del centro e del sud Italia. I frequentatori più assidui di ristoranti sono uomini, giovani residenti al nord. Cambia anche la scelta degli esercizi. Il primo posto se lo aggiudicano le pizzerie, il secondo i ristoranti tipici italiani. La crisi si fa sentire anche nel menù. Si sceglie la pizza più un antipasto o un antipasto più un primo. Carne e pesce invece in discesa libera. Una crisi che tradotta in cifre ha significato la chiusura tra il 2008 e il 2009 di 10.000 imprese della ristorazione. Saldo negativo anche nel primo trimestre 2010 con meno 2.583 e una riduzione del fatturato del 2,8%. Alessandra Schepisi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Falso allarme bomba in tarda mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano. Una valigia sospetta davanti all'ingresso principale del tribunale è stata fatta brillare dagli artificieri, ma conteneva solo vestiti. È rientrato anche l'analogo allarme di questa mattina a Mantova, davanti all'abitazione del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, dove era stato segnalato un furgone sospetto. I controlli di Digos artificieri hanno dato esito negativo. Il furgone è risultato di proprietà di un extracomunitario, è stato rimosso. Grave incidente stradale a Campo Longomaggiore in provincia di Venezia nella notte. Un'auto è finita fuori strada, forse per la fitta pioggia, e 5 persone sono morte. Si tratta di 5 giovani di origine marocchina fra i 28 e i 34 anni, tutti regolari. Quest'estate proprio non vuole arrivare, ce ne siamo accorti. Oggi tocca alle Marche, dove si registrano allagamenti e disagi alla viabilità. Va invece un po' meglio sulle Alpi, dove ieri è caduta addirittura la neve. Sono stati tratti in salvo nella notte due alpinisti tedeschi che a causa del maltempo proprio erano rimasti bloccati sull'Ortles per 2 notti. Non è andata molto meglio al sud. Sentiamo Giuseppe Di Mino, dell'assessorato alle risorse agricole e alimentari della Regione Sicilia. Fortunatamente l'instabilità meteorologica determinata dalla perturbazione atlantica ci ha toccato solo marginalmente. La situazione che abbiamo vissuto è tutto sommato accettabile. Abbiamo subito gli effetti della ventilazione forte, soprattutto di maestrale, anche di ponente, soprattutto qualche acquazzone serale molto intenso che ha dato qualche disagio alla mobilità generale, perché in pochi minuti sono caduti tanti millimetri. Tutto sommato non ci sono stati i problemi del centro-nord, ecco. La situazione attualmente è accettabile, certamente è una situazione anomala rispetto al periodo in cui ci troviamo, perché siamo all'inizio dell'estate e abbiamo un tempo autunnale. Sicuramente da qui a poche ore, diciamo, la situazione comincerà ad evolversi positivamente. A parte la giornata di oggi, domani e dopodomani, poi da giovedì ci sarà questo graduale miglioramento. Io posso azzardare e dire che domenica qui in Sicilia potremmo ritornare tutti al mare. Era mai successo in precedenza un episodio simile? La memoria umana spesso dimentica, però è anche, diciamo, accettabile che ci siano degli eventi anomali e così di queste dimensioni, diciamo, che sono tutto sommato veramente, tra virgolette, normali, rientrano anche nella norma. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'autorizzazione a procedere chiesta per l'ex ministro Lunardi. In questi minuti la conferenza stampa dell'avvocato del Cardinal Sepe. E poi abbiamo parlato dell'appello di Napolitano alle Camere. L'avete sentito, bisogna concentrarsi, ha detto, sulla manovra prima della pausa estiva. E poi ancora il maltempo, quest'estate che proprio non vuole arrivare, piove al centro-sud e farà freddo ancora per qualche giorno. E ripartiamo dalla deludente prestazione azzurra di ieri contro la Nuova Zelanda. Un bel disastro. Siamo stati molto sfortunati perché effettivamente un gol ci poteva stare. Sinceramente abbiamo avuto un po' di sfiga. Sì, ma una difesa, perché la prima palla pericolosa se la sono presa. Abbiamo fatto 30 angoli e neanche un gol. Altro che notti magiche. Questa nazionale non sembra proprio essere in grado di regalare emozioni. E gli italiani, già poco convinti prima dei mondiali, ora sono delusi, dopo che la vittoria è mancata anche contro la modestissima Nuova Zelanda. Nel paese dove ogni tifoso si crede un commissario tecnico della nazionale, ognuno ha la sua ricetta per vincere. Ed affiora la sensazione che non siano molti quelli pronti a raccogliere l'eredità dei campioni del passato anche recente. Mi sembra che da 2 anni che stiamo facendo questo gioco, cioè niente. Cassano doveva prenderlo, giusto dargli legnati il primo anno per fargli cambiare carattere. Ma secondo me tendenzialmente che l'Italia non ha più giocatori di una volta. Il materiale è quello, è decisamente scadente. Non sceglie la squadra. Ha sbagliato di convocazione, perché un Cassano, un Artobello non si possono lasciare a casa. Eh già, nell'lapsus di questo tifoso c'è tutta la nostalgia di goleador come Paolo Rossi, Roberto Baggio e Spillo Altobelli. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. E andiamo in Sudafrica, andiamo a Casa Azzurri. Dario Ricci, allora, che clima si respira oggi? Beh, insomma, dei 60 milioni di commissari tecnici che siamo noi italiani, adesso la parola tocca a quello che sulla panchina azzurra ci sarà almeno fino a fine mondiale, cioè Marcello Lippi, che sta parlando proprio in questi minuti. È un Lippi che ho trovato ancora fiducioso, malgrado la delusione di ieri, delusione palpabile che abbiamo anche raccontato nelle parole del presidente Abete. Un Lippi ancora fiducioso, ha detto ci sono stati anche degli aspetti positivi in queste due partite e non dobbiamo avere, né i miei giocatori devono avere il terrore del mondiale. Paradossalmente potrà essere meglio giocare con una grande contro l'Olanda piuttosto che contro la Nuova Zelanda, perché le grandi squadre comunque fanno la partita e quindi lasciano degli spazi, mentre le piccole schiudono a riccio, e l'abbiamo visto ieri i neozelandesi. I conti comunque si faranno alla fine, ha detto Lippi, usando questa espressione, i cavalli si contano al palo. E poi ha detto: non sorprendetevi né siate dispiaciuti se questa squadra presto sboccerà. Quindi speriamo che Lippi abbia ragione, sì. Perché quello che si è visto ieri non fa pensare così. Speriamo. Dario Ricci, grazie, ci sentiremo nelle prossime edizioni di GR24. Noi andiamo invece dall'altra parte del globo, perché andiamo nel Golfo del Messico. Nuove rivelazioni sulla British Petroleum. La British Petroleum sapeva che c'erano falle nel sistema di sicurezza della Deepwater Horizon settimane prima che la piattaforma esplodesse, causando la disastrosa marea nera nel Golfo del Messico. Lo ha rivelato alla BBC un operaio della struttura sopravvissuto all'incidente. Tyrone Benton, questo è il nome del dipendente, ha raccontato all'emittente britannica che la falla e il sistema di sicurezza non furono riparati, per affidarsi invece a un secondo sistema. Abbiamo notato una perdita sull'unità di controllo e abbiamo informato gli uomini della compagnia, ha detto l'uomo in TV. La BBC ha poi intervistato alcuni esperti che hanno definito inaccettabile il comportamento della multinazionale. Secondo l'operaio, riparare l'unità di controllo invece di attivarne un'altra avrebbe significato un'interruzione temporanea dell'attività di trivellazione sulla piattaforma, che costava alla BP $500,000 al giorno. Per arginare la marea nera, la compagnia, secondo quanto riportato oggi da Bloomberg, ne ha già spesi 2 miliardi, 4.000 volte tanto. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima avversari, ora collaboratori. La bozza di una nuova legge speciale per Venezia segna la pace fra il sindaco Giorgio Orsoni e il ministro Renato Brunetta. Sono passati 3 mesi dalla campagna elettorale e oggi si trovano intorno a un tavolo a collaborare. Da una parte il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, dall'altra il suo ex sfidante, il ministro Renato Brunetta, battuto alle amministrative ma tornato in laguna in veste di plenipotenziario per la legge speciale sulla salvaguardia della città. Una legge che ha assoluto bisogno di essere riscritta e che vedrà Orsoni e Brunetta impegnati fianco a fianco, anche se il ministro precisa subito di essere senza portafoglio. Per recuperare i fondi necessari bisognerà ricorrere al mercato e ai privati. Questa è un'area ricchissima, di beni ambientali, di beni culturali, di beni demaniali. Possibile che in un'area così ricca si debba sempre comunque aspettare le risorse pubbliche? Un capitolo della nuova legge speciale riguarderà il MOSE, la cui realizzazione è stata resa possibile finora grazie alla legge obiettivo, ma la grande opera dovrà essere regolarmente manutentata e gestita. La nuova legge speciale dovrà dunque soprattutto saper valorizzare alcune risorse come il porto, Porto Marghera e l'arsenale di Venezia per attrarre investimenti. Il sindaco Giorgio Orsoni si è mostrato moderatamente ottimista. Il ministro mi ha portato un testo con delle linee guida, lo ritengo un segno anche di attenzione, cioè non arrivare già con un testo definito, ma con delle linee guida sulle quali poter discutere. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Un trionfo, miglior film, miglior sceneggiatura, migliore attrice protagonista, Vittoria Puccini. Per questi 3 premi pesantissimi, Gabriele Muccino ha cambiato continente. Un trionfo. Baciami ancora di Gabriele Muccino ha sbancato al Festival Internazionale di Shanghai, che non è uno dei tanti festival che punteggiano il mondo del cinema. È l'evento più importante del continente asiatico. Baciami ancora. Un riconoscimento prezioso, ha detto Muccino, perché fa capire quanto universali possano essere i temi del film. Ma un riconoscimento prezioso sicuramente anche per un'eventuale distribuzione cinese della pellicola. 2 mesi fa era stato presentato un programma di incontri tra produttori dei 2 paesi, anche perché entro fine anno sarà operativo l'accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Cina. Se uno deve andare al terminal C? È vietato parlare al conducente. Se ti deve 12.200 euro. Ci puoi sedere sulle ginocchia e farti cantare pure la ninna nanna. Dai, Titti, lo sanno tutti che io pago i debiti di gioco. Sono 2 mesi che lo dici, Fra. Il primo risultato, la distribuzione in 2000 sale di Notturno Bus di Davide Marengo, è stato il primo film italiano distribuito in Cina dall'11 dicembre 2001, data in cui il paese è diventato membro ufficiale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina ogni anno acquista all'estero non più di 25 film, 20 delle major americane e 5 sul mercato internazionale. Negli ultimi anni erano stati distribuiti solo 2 film italiani, La vita è bella di Benigni nel 99 e Cucciolo di Neri Parenti nel 98. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia di questo GR24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Prossima edizione alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.